Italia in controluce. Buongiorno, buon pomeriggio da Daniele Biacchesi. Questa Italia in controluce, due edizioni quotidiane che raccontano la cronaca italiana. Stiamo lavorando numerosi reportage, inchieste, approfondimenti. Martedì 17 alle 13.30 realizzeremo certamente un numero speciale dedicato alle elezioni amministrative e andremo a vedere chi ha vinto e chi ha perso nella tornata elettorale di questo weekend. Maria Luisa Pezzari intanto sta preparando un'inchiesta sulla cura, la prevenzione delle tossicodipendenze in Italia, partendo da un caso, quello di Bolzano. E comunque il nostro programma è ricco, ci sarà molto e molto altro ancora. Come ogni venerdì a quest'ora c'è Scuola in controluce di Piera Cece. Scuola in controluce. Continua il grande amore fra scuola e grande e piccolo schermo. Al cinema in questi giorni il primo incarico di Giorgia Cecere racconta la storia di una ragazza che nel 53 viene spedita in uno sperduto paesino pugliese a fare da maestra in una scuola che si fa davvero fatica a definire tale. E la prossima settimana in TV su Canale 5 la terza serie dei Liceali. New entry nel cast e fra i banchi Giulia Elettra Gorietti, che così spiega il successo dei film o fiction sulla scuola. Perché rispecchiano comunque la realtà e soprattutto la parte più divertente dell'aspetto scolastico, no? Della scuola. Nel senso, la scuola non è solo studio, per carità anche studio, però tutto ciò che c'è di contorno e che quindi ti invoglia ad andare la mattina a scuola alle 8, ovvero le amicizie, qualche scherzo che si può fare ai professori o tante altre cose, un amore, eccetera, eccetera. Mancano ancora i decreti attuativi della riforma per la formazione degli insegnanti, ma le università sono già al lavoro per mettere a punto i corsi universitari che dovranno sfornare presto i nuovi insegnanti della primaria. Corsi che, secondo Alberto Melloni, docente di storia del cristianesimo, registrerebbero una grave carenza. Sì, dunque, nel decreto che a settembre scorso il ministro Gelmini ha firmato, che fissa gli insegnamenti obbligatori per coloro che dovranno andare nelle scuole primarie a fare i maestri e le maestre, sono previste un certo numero di insegnamenti di storia. Le università possono scegliere fra questi insegnamenti di storia, e fra questi sono la storia greca, la storia romana, la storia medievale, la storia moderna, la storia contemporanea, ma non c'è niente di religionistico, non c'è nella storia del cristianesimo né quella delle religioni. E la mancanza è una mancanza molto grave, perché dal punto di vista della Chiesa Cattolica, per norma concordataria, le maestre e i maestri sono gli unici nell'ordinamento scolastico che col permesso del vescovo possono insegnare la religione cattolica. E in ogni caso tutti quanti sappiamo che sono le maestre e i maestri che sono i grandi alfabetizzatori del pluralismo religioso, sono quelli che di fatto si trovano a gestire tutti i problemi, da quelli alimentari a quelli dell'abbigliamento, di una società che ha visto cambiare il suo personaggio religioso in modo definitivo. Ecco Melloni, allora, in realtà anche alla primaria ci sono gli insegnanti di religione. Sì, che possono essere i maestri stessi, però, con il permesso del... Quasi sempre però sono esterni, poi sono nominati dalla curia, anche questo non suscita qualche polemica, insomma, però comunque ci sono gli insegnanti, una norma concordataria, però ci sono gli insegnanti di religione, sono quasi sempre loro poi essere preposti all'insegnamento della religione, non delle religioni peraltro. Della religione cattolica, fanno un insegnamento di tipo confessionale come necessario che sia, ma la cosa interessante e secondo me sbagliata è quella che la Repubblica non si faccia cura di indirizzare gli atenei che formano gli insegnanti a dare loro una preparazione anche in questo settore, e questo è una cosa estremamente, estremamente grave, perché fa parte di un'idea molto sciocca, e cioè che l'analfabetismo sia una cosa che semplifica il panorama. In realtà l'analfabetismo lo complica di molto, e la conoscenza dei fenomeni storico-religiosi non la si fa con la buona volontà o su internet. Tanto più oggi come oggi, quando insomma gli insegnanti delle scuole primarie non solo sono chiamati ad insegnare a ragazzi davvero di tante religioni ormai, quindi a confrontarsi anche con problematiche legate alla religione. Sì, certo, non solo di tante religioni, ma molto spesso di comunità che, proprio perché sono comunità minoritarie, trovano nella pratica della loro fede dei motivi identitari sempre più forti e sempre più difficili da comporre. Allora anche questo è un fatto assolutamente, secondo me, da stigmatizzare. cioè che la Repubblica non si ponga il problema di insegnare la convivenza della libertà religiosa fin dall'inizio attraverso gli strumenti di conoscenza. Questo è un fatto di cui paghiamo le conseguenze adesso, di cui pagheremo le conseguenze in futuro, e va notato che negli altri paesi non è così. I maestri dovrebbero dunque avere una formazione più approfondita in tema di storia delle religioni, secondo Melloni, materia che sarebbe dovuta finire nel piano di studi universitario. Impossibile, secondo Giorgio Israel, che ha presieduto la commissione che ha ridisegnato i corsi di formazione. Io condivido il discorso di Melloni in toto. Non gli ho mai detto che si potesse sanare questa cosa, né penso che si possa farlo, perché il decreto è stato approvato in via definitiva e quindi una modifica dovrebbe comportare fare di nuovo tutto il percorso. Mi pare una cosa veramente improponibile. E secondo lei è stato in qualche modo un piccolo errore non inserirlo, oppure c'è stata una valutazione? Non è un errore, la cosa non si è proprio posta, non c'è mai stato questo insegnamento. Il problema è molto semplice: la laurea per la formazione del primario, cioè per i maestri, è una laurea che aveva una componente di carattere psicopedagogico, cioè la pedagogia speciale, cioè per disabili, eccetera, enorme. E noi abbiamo lavorato per ampliare la componente disciplinare, perché neanche la matematica era obbligatoria, non so, sembrava una laurea di formazione infermieri o assistenti sociali. Quindi abbiamo ottenuto con una mediazione faticosa un ampliamento delle componenti disciplinari. Io come Presidente della Commissione so benissimo le pressioni che ho ricevuto da tutte le parti per aumentare i crediti, che so, di geografia o di fisica o altro, però la coperta era quella che era e più di questo non si poteva ottenere. Far saltare tutto, a mio parere, già questo è stato un progresso notevole, perché ha ridato una dignità disciplinare e che anche i pedagogisti hanno accettato di buon grado. Se si voleva introdurre altri 8 crediti di storia delle religioni, dove li prendevamo? Levando geografia del tutto? Levando fisica? Levando chimica? Anche perché comunque la storia delle religioni in qualche modo dovrebbe anche essere assicurata comunque in un altro ambito, perché ricordiamoci che noi abbiamo l'ora di religione, quindi forse è su questo che si potrebbe anche lavorare un po'? Ma questo senza dubbio, ma non è che c'è niente da fare, cioè questo c'è, cioè l'ora di storia di religione, si potrebbe allora insistere perché quell'ora diventa un'ora di storia delle religioni, forse, non so se però c'è un accordo in questo senso, ma la tabella sarà dura a trovare un accordo in questo senso, credo. Appunto, però la tabella è quel che è. Io sono d'accordo, ma guardi che si potevano introdurre molte altre cose. Io ho dovuto resistere, c'è chi voleva introdurre la statistica e si lamenta perché non è stata introdotta la statistica, ma ripeto, la coperta era quella che era. Cioè, potrebbe essere però una strada quella di trasformare magari sul medio lungo periodo, comunque insomma di iniziare a ragionare sul fatto che l'ora di religione possa trasformarsi in un'ora di storia delle religioni? Questo senz'altro, ma questo è un problema enorme, perché c'è un concordato, ci sono delle lauree di religione, un'ora gestita dai vicariati, insomma non è una cosa così semplice, quindi è tutto un altro problema, non è che lo vorremmo questo scaricare sul problema delle tabelle della formazione primaria, non so se mi spiego, cioè è un problema politico-culturale enorme di altra natura, ecco, ma non c'entra affatto con questa cosa specifica, ecco. Io ripeto, io sono d'accordo sulla valutazione del professor Melloni, cioè che sarebbe giusto che siccome fa parte della cultura dell'Europa la conoscenza delle grandi religioni, che ci fosse una cosa del genere, ma che facciamo? Non gli insegniamo neanche un po' di fisica? Non mi pare quella una buona idea. E allora bisognerebbe convincere i pedagogisti a scendere ulteriormente da quel circa 55% di materie che detengono nella formazione primaria. Per me sono troppe, ecco, ma si immagini che quando siamo partiti si arrivava a più del 70%, formazione di un maestro era questo, 70% circa, o in certi casi addirittura 80% di materie pedagogiche e poi un pochino di discipline. Italia Controluce seconda edizione termina qui, torniamo lunedì alle 6.30 su Radio 24.